Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 18 maggio 2015. La mongolfiera compie il giro del mondo nella stratosfera, nuovo record per gli aerostati. La preparazione è stata portata avanti con grande accuratezza e un po' di segreto. Ora però l'impresa è compiuta. Remax, multinazionale immobiliare, il cui simbolo è non a caso un pallone aerostatico, ha conquistato il suo record, compiendo la circumnavigazione del globo terrestre alla quota stratosferica di 40.000 metri. L'impresa compiuta da Picard e Jones nel 1999, che per primi portarono a termine un giro del mondo senza scalo in aerostato, si era infatti svolta alla quota degli strati più alti della troposfera, sfruttando le correnti a getto. Il pallone Remax è invece salito più in alto, sfruttando i venti che spirano in senso contrario alla rotazione terrestre. Fin qui la notizia del 18 maggio 2015, ma come diciamo sempre, il futuro ha radici nel presente. In questo 2012 il nuovo progetto di Remax ci è stato rivelato da Marco Mairani, curatore scientifico della sezione di aerostatica di Volandia, parco e museo del volo di Malpensa. È uno degli esempi, spiega Mairani, delle potenzialità che conserva, anche per la ricerca, uno strumento antico. Gli aerostati ancora oggi sono uno strumento di ricerca scientifica insostituibile. Infatti al parco il Museo del Volo di Volandia abbiamo esposto anche con questa nuova esposizione dell'aerostatica che collega i precursori del volo al futuro e anche all'astronautica, e abbiamo esposto dei componenti che sono stati mandati nell'altissima atmosfera negli anni dal 99 al 2003-2004 con questo progetto, il progetto Boomerang, che è stato realizzato dal professor De Bernardis dell'Università di Roma e che ha avuto una larga eco a livello mondiale, perché hanno lanciato un telescopio che rileva i raggi infrarossi e l'hanno lanciato con questo pallone, è arrivato a 40.000 metri di altezza e ha rilevato la radiazione di fondo dell'universo, quindi ha fatto delle ricerche importantissime sia sulla radiazione di fondo che sul concetto della cosiddetta materia oscura dell'universo. I palloni stratosferici ancora oggi hanno una valenza importantissima nella ricerca scientifica, perché qua abbiamo degli strumenti, dei palloni che possono restare anche in volo per mesi. Addirittura c'è un record di un pallone che è rimasto a 40.000 metri a fare rilevazioni scientifiche per più di 500 giorni. Con costi anche sensibilmente inferiori rispetto invece ai satelliti. Certamente. I costi sono, ovviamente sono costi rilevanti comunque in ogni caso, però sono costi che non sono neppure paragonabili. Chiaramente si parla proprio di ordini di grandezza di 100 volte maggiori. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.